È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, e la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre e il futuro che arriva chissà se ha fiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera, che ci fa sognare. Questo vento che sa di lontano e che ci prende la testa, il vino bevuto e pagato da soli alla nostra festa. È una notte in Italia anche questa, in un parcheggio in cima al mondo, io che cerco di copiare l'amore ma mi confondo, e mi confondono più i suoi semi puntati dritti sul mio cuore, o saranno le mie mani che sanno così poco dell'amore. Ma tutto questo è già più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno dati sempre alle persone sbagliate, più delle idee che vanno a morire senza farti un saluto, di una canzone popolare che in una notte come questa ti lascia muto. È una notte in Italia se la vedi da così lontano, fra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede nel vento che tocca il mare, è tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare, è tutta musica leggera, ma la dobbiamo imparare. È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è poi la fortuna di chi vive adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre e il futuro che viene a darci fiato.